Ottimo, il tuo quadrante è di 90 gradi. Di conseguenza la soglia da superare è 9. Pronto? Tocca lo schermo per tirare il dado e affrontare i briganti. Posiziona il tag dado sullo schermo.